qualcuno su 10. Martalino, mi ascolti? No, non ti ascoltano. Oh, buonasera. Buonasera a lei. Ehi, Martalino. Io sono qui, Beh, allora. Come mi ascolti, Gabbio? Guarda, adesso me ne sono le rarette dello smitter dall'apparecchio. andave, ciozzone. Andave, aspetta che attacco questo cacchio di telefono, così mi cade. Vedo che è molto frequentato questo canale, tutto pieno di enti. Non ne posso più, si occupa della lista dei nominativi a farli entrare. È come un tipo che alla piazzetta, quando non sta andando, si spostava le braccia e diceva permesso, scusate, prendo per il culo. Scusate, permesso, e non ve la dicevo. Cazzo, era viuda prima la piazza, adesso un po' si sta popolando, ma prima... Anda bene mera. Troppi ce ne sono, centri commerciali, Natalia. Poi ho visto un orologio Citizen, Crono, Scuba, tutto quanto, cazzo. Una gazzata su Wish. Bisogna avere solo la carta, io me l'avevo abbigliato, mi sono detto, ma è bello veramente. Quanto costava? Allora, il prezzo è 1100 passa, adesso costa, mi pare, 39 euro qualche cosa, 39,90. Ci sono dei prezzi sbalorditi in quel posto, ci sono apparecchi anche radioamatoriali che costano a piscina. Purtroppo io non ero... Ma neanche, non me ne voglio mettere né ricevitore né niente, perché intanto non c'è più nulla. Cosa? Non è la gente che vede. Se no un ricevitore me l'avrei comprato. Ma esistono i ricevitori in digitale, dove puoi ascoltare ancora. Chissà quanto ti riprendi nei bagagli in digitale. Sono professionali, Natalia, è normale che te li fanno pagare. Poi mangi lì quattro cavolate. Io non spendo più manco 5 lire, mi si abbassa questo baracchino che mi ha comprato e avanza pure. Tutti così diciamo, fino alla prossima volta. Ma io me l'ho comprato perché mi occorreva, se no non potevo farmi manco la concessione, me l'ho preso per quello, se no... Ma già va bene quell'apparecchietto, lo sai. Dicono ma sincero, è da. Se lavori buoni amplificati, chi mi vedi come ti... Ma giù i buoni proprio nulla, devi rimanere così, perché già lo sai che non posso fare nulla. E allora lì lascio qui il microfono suo e boh. Tanto poi non c'ho più nulla, ce l'ho buttato quello che avevo. Alla discarica l'ho buttato. Non c'ho più nulla, qua c'ho solo l'apparecchio e basta. Questo apparecchio qua che mi serve per la concessione, per poter parlare. Gappa, sì, va bene. Interessante poter parlare, farci quattro chiacchiere, la buisa di una fuga. Infatti, a Giumilia si sta girampando tutto. Tutto chi su chi va via o all'ecocentro, via, nel cazzone. E quello è fatto male. Non mi dirmi dove lo butta o ce l'ho via a prendere. No, l'ho buttato proprio per non darlo a nessuno, capito? Così almeno non ne ho venduto, ce li ho buttati e basta. E almeno io sono tranquillo che ho questo apparecchiotto qua, che è omologato, ed è tutto in regola. A me mi interessa essere in regola, capito? Non è altro quello che mi interessa. E anche il mio omologato. Io ho omologato e omologato. C'ho tutto marcato, c'è, l'alimentatore marcato c'è. Capito? Ma vado a... È un casino, E bisogna avere solo roba c'è adesso, basta, punto. La roba vintage, magari si può tenere ma non attaccare, si può tenere come ricordo, perché ci sono tanti vintage che sono belli, la collezione. Ma non lo so se ci possono tenere, anche sta qua. No, se non li usi li puoi tenere. Cosa penso di sì, perlomeno. Bisognerebbe informarsi a vedere se ci possono tenere. Io ti la gran parte parlo sicuro, usi al manco quando mi sei cani. La pari se le posso vedere chi è ragione. Era tu, non c'è nessuno, cosa ti stia a fare i tribuni, questo, quell'altro, tizio 70 euro e sempre andiamo. Lo so, ma avere una bella stazione piace a tutti, dai. Sì, lo so che piace a tutti, a me più degli altri pure, però purtroppo le leggi sono quelle, non si può fare altro. A me me l'hanno sequestrato, io pensavo di essere in regola perché era omologato quell'apparecchio, solo che gli mancava il marchio c'è perché era vecchio, capito? E quindi non lo puoi dire. Io con marchio c'è ne ho tre, ho l'Alan 48, l'Alan 48 Plus e il Cobra, tutti con marchio c'è. Quelli lì si possono ottenere, è vero? Sì, e il Midland era con marchio c'è già da quel lì. Invece quello che avevo io non aveva la marca, cioè era omologato, era la targhetta, il numero di omologazione, tutto quanto, però non era marcato c'è, e mi hanno trovato il difetto per quello, vabbè, perché non avevo l'apparecchio omologato c'è, e come sono io chissà quante ce ne sarà di persone che non hanno gli apparecchi adatti. E vabbè, comunque io vivo, lascio vivere. Io, ognuno fa quello che gli pare piace già. Io mi devo attenere a questo e questo faccio e basta. 40 canali omologati, basta. Più di quello non posso fare. Giusto, giusto. E vabbè. Interessate che moduli da voi. Infatti, a me mi interessa quello. Poter parlare tranquillo, senza rottura di scatto di nessuno. Oh signore, il microfono è che mi viene male perché è piccolino, no? Ma li vedono i microfoni, quelli della Midland, quelli di CTE, qua i AGBC costano 21 euro mi pare, e più medium. C'è lo stesso attacco pure, lo devi fare con l'attacco, quello che c'ha, con la 4, no, quello lì c'ha l'up-down, vero? Questo c'è l'up-down, è per quello, avrà sei figli. Ma non c'è tra nulla, li elimini due. Già lo so, c'è anche lo squelch automatico in mezzo, chissà quanti vi dirà questa cosa. Perché se ti dà fastidio del microfono, quel microfono che vendono della Midland è normale, non è amplificato, è normale, però esce bene. Anche questo esce bene, non è che è scanale questo. Però è troppo minore di Gozumi, è piccolo di... viene male a modulare, a me perlomeno mi viene male con un microfono così piccolo. Quello va bene in macchina, che non ti occupa molto spazio, no? Infatti, se mi rompo le scatole non lo faccio arrivare un altro, e me lo metto in macchina. E infatti, anche uguale, tanto sai che va bene quello lì, così almeno non sbaglio. Uguale a questo lo pigli, allora. Ma ti ha detto che costa quello lì? Sembra 70 euro l'ho pagato, una cosa del genere. 170 o 70? 70. E d'accordo, Polmar, come questo, lo vuole 160, lo vuole Fusaro, io me lo faccio arrivare a fuori. Ehi, sono esagerati, dai, cazzo. Se è uguale identico, sono esagerati. 160 euro lo voleva Polmar. Questo è Polmar, lo stesso. Si chiama ZX40. Però. Adesso vado a vedere. E lì nomi, c'ha tutte le nazioni, c'ha... Io l'ho messo su Italia, così vai, di 40 canali, in AM e in FM. Non so neanche come si cambia la nazione. Sai quanto l'ho trovato io, l'Antalì? faccio arrivare subito. Come ti mi pagano e me lo faccio arrivare subito. Se è abbassato così. Io l'ho trovato a 55 euro. Va bene come prezzo, io ho pagato di più. Sembra che c'era anche la spedizione gratuita. È che non c'ho, gli occhiali, se no te l'avrei, ti avrei detto le caratteristiche. Sì. Poi ti danno la dichiarazione di conformità, mi ho scaricato dal coso del ministero, come che questo era in lista degli apparati omologati, capito? Non mi sono occupato fotiglia, Russia, ho documenti alla mano. La campagna, quella riprendo, la piazza molto ci vuole, c'è la base già, la vito e fu, e me lo metto in macchina quello lì, uguale a questo me lo prendo. A me la Turbo 2001 mi manca solo la vite per avvitarlo sotto, poi adesso c'ho tutto, perché l'ho lasciato l'attacco, gliel'ho lasciato attaccato alla macchina per lasciarlo in buco e ho fatto male. Vabbè, comunque c'ho quello lì e l'attacco della PLC 1000 che è uguale identico. L'ho attaccato io dove c'è attaccata la PLC 1000 e pompava più la PLC 1000 che la Turbo 2001, lo sai, in certi posti. Io con la PLC 800 uscivo quanto è te. Sì, ed è più morbida come antenna di mare. 800 sì, è molle molle. La invece la 1000 è più dura. Però la PLC 800 pompava vero. Io c'ho quella. E io avevo fatto, con lo stile avevo fatto quella della Sigma, quella piccola, come si chiamava, ma avevo preso le misure e l'avevo fatta. Te lo ricordi come usciva la portatore di Santiago Longo e arrivava a Sassi? La Minox. La Minox, sì. Avevo preso le misure da internet, da uno stile che c'avevo, avevo fatto la Minox, però ho fatto la Minox più grossa. Con lo stilo più grosso, attimo che sciave. Si va bene qui. Poi un bel giorno ho preso e ce l'ho buttata nel cassoletto. mi ero stufato di avere l'antenna corta, mi piaceva più lunga. Ma se usciva come l'antenna lunga, ma perché ti è venuto la corta? No, quella lunga usciva due Santiago in più, c'aveva. Uno, due Santiago, certo. Però è cosa di là. Qua era l'antenna corta e tu si la lampada nel cassonetto che avanti break Masso, dove sei? Non ho capito dove sei, un po' grigio, buonasera, molto basso sei, livello QRM, dove ti trovi? Via Mossa o Mosca, illuminami, dov'è via Mossa che non me lo ricordo, dov'è via Mossa Natalia? Non ne ho idea. Un po' grigio, dove si trova via Mossa? Non ti ascolto, fatti sentire perché non ti sento bene. Ti sento quel rem più forte di te. Non so se ci sia qualcuno che ti ascolta meglio, ma io non ti ascolto. Lupo grigio, sto guardando con Google Maps se ti vedo. Natalino. Dove? Sei Marco. Natalino sono da Marco. Come se non avevi Marco Cono? Da. Marco Condor non c'è, Marco ci sì, mi sta prendendo il raffreddore Natalino. E sono cucucato, Perché c'è un virus in giro. E uno non sono così tutto umano. Hai visto quello che c'è in Cina di virus? È mantenendo un bel basso. Adesso stanno mettendo tutti i controlli all'aeroporto perché questo virus può essere trasportato qua in Italia pure. Lo so. Allucinante, grazie, se vogliamo i malati di là, se no, lui, proprio. E poi sono virus che non trovano, se non lo conoscono, non trovano rimedio. Sì, infatti, il vaccino non vi ne fa nessuno. Se ne entra uno di quei cinesi così, infetti, fa diventare un casotto qua. Vabbè, da, io devo fare cosa e me ne passo in quei ritirati, sentiamo alle prossime già, che devo fare cosa con Concetta, là. Ai, va bene, Natalia, ci sentiamo, ci se c'è qualcuno ci facciamo avanti, se no sto chiudendo tutto. Ciao, ciao. Ciao, attacco. Chi c'è sul 10, avanti. Un po' grigio, spostati che da lì non ti sento. Ti sento appena appena a bisbigliare, ma non si capisce cosa dici. Boh, boh.